C'erano momenti in cui Olan riprendeva coscienza di sé e di quel che le stava attorno, e una volta chiamò Cucù, e quando Wang Lung con grande stupore la fece arrivare, Olan sollevò il busto facendo forza sul braccio tremante e disse molto semplicemente: «Tu avrai anche vissuto nelle corti dell'anziano signore ed eri considerata bella, ma io sono stata la moglie di un uomo e gli ho partorito dei figli e tu sei ancora una schiava». Vedendo Cucù sul punto di rispondere con rabbia, Wang Lung la portò fuori scongiurandola: «Non conosce più il significato delle parole». Quando Wang Lung tornò nella stanza di Olan, lei aveva ancora la testa appoggiata sulle braccia e gli disse: «Quando sarò morta, voglio che né quella né la sua padrona entrino nella mia stanza o tocchino le mie cose, e se lo faranno manderò indietro il mio spirito per maledirle». Poi fu presa dal suo sonno intermittente e la testa le cadde sul cuscino. Ma un giorno, prima del nuovo anno, la sua salute migliorò improvvisamente, come una candela che verso la fine guizza luminosa, ed era lei come non era più stata. Si mise a sedere nel letto, intrecciò le stesse capelli, chiese del tè, e quando Wang Lung arrivò disse: «Il nuovo anno sta per arrivare, non ci sono pronti né dolci né carni, e ho pensato una cosa: non voglio quella schiava nella mia cucina, ma vorrei che mandassi a chiamare mia nuora, la fidanzata del nostro figlio maggiore, non l'ho ancora vista. Ma se viene le dirò cosa fare». Wang Lung fu contento di vederla in forza, anche se non gli importava delle feste quell'anno, e mandò Cucù a supplicare Liu, il mercante di grano, visto che la situazione era così triste, e dopo un po', sentendo che Olan non sarebbe forse sopravvissuta all'inverno, Liu acconsentì. E dopo tutto la ragazza aveva 16 anni, più grande di altre quando andavano nella casa del marito. Ma per via di Olan non ci fu nessuna festa. La ragazza arrivò senza clamore in una portantina, accompagnata dalla madre e da un'anziana serva, e la madre se ne andò dopo aver affidato la ragazza a Olan, mentre la serva rimase per aiutarla. I bambini allora furono spostati dalla stanza in cui dormivano, che fu data alla nuova nuora, e tutto fu sistemato come si doveva. Wang Lung non parlò con la ragazza perché non stava bene, ma abbassò con gravità il capo quando lei si inchinò e fu contento perché conosceva il suo dovere e si muoveva per la casa silenziosamente con gli occhi bassi. Era inoltre una bella ragazza, ma non tanto da potersene vantare. Il suo comportamento era attento e inappuntabile in ogni cosa ed entrò nella stanza di Olan e la accudì, e ciò lenì il dolore di Wang Lung per sua moglie, perché c'era una donna accanto al suo letto e Olan ne fu molto contenta. Olan fu contenta per 3 giorni e più, e poi pensò a un'altra cosa. E quando Wang Lung entrò al mattino per vedere come aveva passato la notte, gli disse: «C'è un'altra cosa che vorrei prima di morire». A quelle parole lui rispose con rabbia: «Non puoi parlare di morte e farmi piacere». Lei allora sorrise lentamente, lo stesso sorriso lento che terminava prima di arrivare ai suoi occhi, e rispose: «Devo morire, perché sento la morte che aspetta nelle viscere, ma non voglio farlo prima del ritorno a casa di mio figlio e del suo matrimonio con la buona ragazza che è mia nuora e mi serve bene, tenendo diligentemente la bacinella dell'acqua calda e sa quando lavarmi la faccia dopo che ho sudato per il dolore. Adesso voglio che mio figlio torni a casa, perché devo morire e voglio che prima sposi questa ragazza, così che potrò morire facilmente sapendo che un nipote per te e un pronipote per il vecchio è stato chiamato alla vita». Quelle sarebbero state per lei tante parole in qualsiasi momento, persino quando era in salute, e le pronunciò con più vigore di come avesse fatto per molte lune. Wang Lung si rinfrancò sentendo la forza nella sua voce e l'intensità con cui desiderava tutto ciò, e non volle contrariarla, anche se avrebbe desiderato più tempo così da preparare un grande matrimonio per il figlio maggiore. Perciò le disse con tutto il cuore: «Lo faremo, e oggi stesso manderò un uomo al sud a cercare mio figlio e a riportarlo a casa per farlo sposare. E allora tu mi devi promettere che raccoglierai ancora le forze e smetterai di morire e starai meglio, perché senza di te la casa è una tana di bestie». Parlò così per farla contenta, e lei lo fu, anche se non disse altro, ma si distese e chiuse gli occhi sorridendo un po'. Wang Lung inviò l'uomo e gli disse: «Di al tuo giovane signore che sua madre sta morendo e il suo spirito non può riposare in pace finché non l'avrà visto, e l'avrà visto sposato. E se ha cuore me, sua madre e la sua casa, deve venire senza esitare un istante, perché il terzo giorno a partire da adesso ci sarà un festeggiamento e ospiti, e sarà sposato». E come Wang Lung disse, così fece. Ordinò a Cucù di provvedere nel modo migliore alla festa e di far venire cuochi dalla bottega in città per aiutarla, e le versò nelle mani dell'argento e disse: «Fai come avrebbero fatto nella grande casa in un momento così, e ci sarà ancora dell'argento». Poi andò nel villaggio e invitò ospiti, uomini e donne, tutti quelli che conosceva, e andò in città e invitò quelli che conosceva nella casa da tè e ai mercati del grano, e disse allo zio: «Invita chi vuoi per il matrimonio di mio figlio, chi vuoi fra i tuoi amici o fra gli amici di tuo figlio». Disse così perché ricordava sempre chi era suo zio, ed era sempre cortese con lui, e lo trattava come un ospite d'onore, e così aveva fatto dal momento in cui aveva saputo chi era suo zio. La vigilia del suo matrimonio, il figlio maggiore di Wang Lung arrivò a casa ed entrò a grandi passi nella stanza, e Wang Lung dimenticò tutte le preoccupazioni che il ragazzo gli aveva causato quando era a casa. Più di 2 anni erano passati, infatti, da quando aveva visto suo figlio, ed ora eccolo lì, non più un ragazzo, ma un uomo, alto e di bell'aspetto, con un grande corpo quadrato, gli zigomi alti e rossastri e corti capelli neri curati con l'olio e luccicanti. E indossava una lunga veste rosso scuro come quelle che si trovano nei negozi del sud, e una giacchetta nera senza maniche. E il cuore di Wang Lung esplose di orgoglio nel vedere suo figlio, e non pensava più ad altro se non a lui, al suo bel figlio, e lo portò alla madre. Allora il giovane sedette accanto al letto della madre, e nel vederla così gli spuntarono le lacrime, ma non voleva dire niente se non cose allegre come queste. «Stai 2 volte meglio di come mi hanno detto, è lontana anni dalla morte, ma Olan disse semplicemente: voglio vederti sposato, e poi dovrò morire». Naturalmente la futura sposa non doveva essere ancora vista dal giovane, e Loto la accolse nella corte interna per prepararla al matrimonio, e nessuno poteva farlo meglio di Loto e di Cucù e della moglie dello zio di Wang Lung. In 3 si presero cura della ragazza, e al mattino del giorno del matrimonio la lavarono dalla testa ai piedi e le fasciarono i piedi con panni nuovi e bianchi sotto le calze nuove, e Loto sfregò sulla sua carne un po' di un suo olio profumato alla mandorla. Poi la vestirono degli abiti che aveva portato da casa, seta bianca a fiori sulla sua carne, dolce e vergine, poi una giacca leggera della più fine e riccia lana di pecora, e poi le vesti di raso rosso del matrimonio. E strofinarono calce sulla sua fronte, e con un cordoncino legato abilmente strapparono i fini capelli della sua verginità, la frangetta che sovrastava le sopracciglia, e resero alta e liscia e squadrata la fronte come segno della sua nuova condizione. Poi stesero sul suo viso cipria e tinta rossa, e con un pennello prolungarono con 2 linee sottili le sue sopracciglia, e posero sul suo capo la corona della sposa e il velo ornato di perle. E sui piccoli piedi misero scarpe ricamate, e tinsero le punte delle sue dita, e profumarono i palmi delle sue mani, preparandola così per il matrimonio. La ragazza lasciò fare tutto, ma riluttante e timida, com'era appropriato e corretto per lei. Wang Lung e suo zio e suo fratello e gli ospiti aspettarono nella stanza centrale, e la ragazza entrò sostenuta dalla sua schiava e dalla moglie dello zio di Wang Lung. E il suo contegno entrando era modesto e inappuntabile, la testa china, e camminava come se non volesse sposare un uomo e dovesse essere sorretta per farlo. Ciò mostrava la sua grande modestia, e Wang Lung fu soddisfatto e si disse che era una ragazza per bene. Poi entrò il figlio di Wang Lung, indossava la veste rossa e la giacca nera, e i suoi capelli erano lisci e il viso appena rasato. Dopo di lui vennero i suoi 2 fratelli, e Wang Lung traboccava d'orgoglio vedendo la processione dei suoi bei figli che avrebbero fatto continuare la vita del suo corpo. Adesso il vecchio, che non aveva capito affatto cosa stava succedendo e poteva sentire solo frammenti di ciò che gli veniva gridato, d'un tratto comprese e scoppiò in una risata rotta e stridula, continuando a ripetere con voce pigolante: «C'è un matrimonio! E un matrimonio sono altri figli e nipoti!» e rideva così di cuore che gli ospiti tutti risero vedendo la sua gioia. E Wang Lung pensò che se solo Olan avesse potuto alzarsi dal letto, sarebbe stata una giornata felice. Per tutto quel tempo Wang Lung osservò di nascosto e con grande attenzione il figlio per vedere se lanciava qualche sguardo alla ragazza, e il giovane in effetti la guardava di nascosto con la coda dell'occhio, ma fu abbastanza perché il suo contegno esprimeva soddisfazione e contentezza. E Wang Lung si disse con orgoglio: «Bene, ho scelto una che gli piace». Poi il giovane e la ragazza si inchinarono insieme davanti al vecchio e a Wang Lung, e poi andarono nella stanza dove giaceva Olan, che aveva chiesto di indossare la sua buona giacca nera. E quando entrarono si sedette sul letto, e sul suo viso ardevano due macchie di un rosso acceso, che Wang Lung prese per segni di salute, tanto che esclamò: «Adesso guarirà!» E i due giovani si avvicinarono e si inchinarono davanti a lei, e lei diede qualche colpo leggero con la mano sul letto e disse: «Sedete qui e bevete il vino e mangiate il riso del vostro matrimonio, così vedrò tutto, e questo sarà il letto del vostro matrimonio, perché io presto arriverò alla fine e sarò portata via di qui». Nessuno rispose alle sue parole, ma i due sedevano fianco a fianco, timidi e silenziosi. Allora la moglie dello zio di Wang Lung entrò, grassa e con fare di importanza per l'occasione, portando due ciotole di vino caldo, e i due bevvero separatamente, e poi mescolarono il vino delle due ciotole e bevvero ancora, a significare che i due adesso erano uno, e mangiarono il riso, e mescolarono il riso, e ciò significava che la loro vita adesso era una sola, e così furono sposati. Poi si inchinarono di nuovo davanti a Olan e a Wang Lung e uscirono, e si inchinarono insieme davanti agli ospiti riuniti. Poi la festa cominciò, e le stanze e le corti erano piene di tavoli e dell'odore del cibo e del suono delle risate, perché gli ospiti arrivavano da ogni dove, quelli che Wang Lung aveva invitato e insieme a loro molti che Wang Lung non aveva mai visto. Si sapeva infatti che era un uomo ricco e il cibo in un momento simile non sarebbe stato misurato né mancato nella sua casa. E Cucù aveva fatto venire dei cuochi dalla città per preparare la festa, perché dovevano essere molte prelibatezze quelle sulle tavole che non si possono preparare nella cucina di un contadino. E i cuochi della città arrivarono portando grandi cesti di cibo già pronto, che doveva essere solo riscaldato, e andavano su e giù facendo sventolare i grembiuli sporchi e dandosi un gran da fare, e tutti mangiarono e mangiarono e mangiarono e bevvero tutto quel che riuscirono, e tutti erano molto felici. Olan volle che tutte le porte fossero aperte e le tende tirate per poter udire il rumore e le risate, per poter sentire l'odore del cibo, e continuava a dire a Wang Lung, che andava spesso a vedere come stava: «E c'è vino per tutti, e il riso dolce a metà della festa è caldo, e hanno messo abbastanza lardo e zucchero e gli 8 frutti». E quando lui l'ebbe rassicurata che tutto era stato fatto come lo desiderava, fu contenta e rimase distesa ad ascoltare. Quando poi tutto fu finito e gli ospiti se n'erano andati, scese la notte, e con il silenzio nella casa e lo spegnersi dell'allegria, le forze abbandonarono Lan, che divenne stanca e debole, e chiamò a sé i due che si erano sposati quel giorno e disse: «Adesso sono contenta, e questa cosa che sta dentro di me può fare quello che vuole. Figlio mio, bada a tuo padre e a tuo nonno, e figlia mia, bada a tuo marito, e al padre di tuo marito, e a suo nonno, e alla poverina nella corte. Non hai doveri nei confronti di nessun altro». Con queste ultime parole intendeva Loto, con cui non aveva mai parlato. Poi sembrò cadere in un sonno intermittente, ma loro attesero che continuasse a parlare, e di nuovo si riscosse per farlo. Ma mentre parlava, era come se non sapesse che erano là o dove lei stessa si trovasse, perché a occhi chiusi e mormorando e girando di qua e di là la testa disse: «Beh, sono brutta, ma comunque ho partorito un figlio. Anche se sono solo una schiava, c'è un figlio nella mia casa». E di nuovo d'un tratto disse: «Come potrà quella nutrirlo e badare a lui come faccio io? La bellezza non porta figli a un uomo». E dimenticò i presenti e la distesa continuò a mormorare. Allora Wang Lung fece segno che andassero e si sedette accanto a lei, mentre dormiva e si svegliava e la guardava. E odiò se stesso perché in quel momento, persino sul letto di morte, vide quanto erano grandi e spettrali le sue labbra purpuree che si ritraevano dai denti. Poi, mentre lui guardava, lei spalancò gli occhi e uno strano velo sembrò coprirli perché lo fissò più volte, sorpresa, e sgranando gli occhi verso di lui, come se si chiedesse chi era, all'improvviso accasciò la testa sul cuscino tondo su cui posava. Ebbe un tremito e morì. Ora che era morta, Wang Lung sentì che non avrebbe potuto sopportare di starle così vicino e chiamò allora la moglie dello zio perché lavasse il corpo per il funerale. E una volta fatto non entrò più nella stanza, ma lasciò che la moglie dello zio e il figlio maggiore e la nuora la sollevassero dal letto e la adagiassero nella grande bara che aveva comprato. Ma per trovare conforto si procurò da fare andando in città e chiamando uomini che sigillassero la bara secondo le usanze e trovò un geomante a cui chiese quale fosse un giorno propizio al funerale. Il geomante indicò un giorno propizio 3 mesi dopo ed era il primo che riuscì a trovare, quindi Wang Lung pagò l'uomo e andò al tempio in città e contrattò con l'abate e affittò uno spazio in cui tenere la bara per 3 mesi e lì fu portata a riposare fino al giorno del funerale, perché a Wang Lung sembrava che non sarebbe riuscito a sopportare di averla davanti agli occhi in casa. Wang Lung fu molto scrupoloso e fece tutto quel che andava fatto per la morta e fece cucire abiti da lutto per sé e i suoi figli e le scarpe erano fatte di rozza tela bianca, che è il colore del lutto, e attorno alle caviglie legarono strisce di tela bianca e le donne della casa si legarono i capelli con nastri bianchi. Dopo tutto questo, Wang Lung non sopportò più l'idea di dormire nella stanza dove era morto Lan, così prese le sue cose e si trasferì completamente nella corte interna dove viveva Loto e disse al figlio maggiore: «Vai con tua moglie nella stanza dove tua madre, che ti ha concepito e partorito, ha vissuto ed è morta, e genera là i tuoi figli». Allora i due si trasferirono nella stanza e furono contenti. Poi, come se la morte non potesse lasciare facilmente la casa una volta che vi era entrata, il padre di Wang Lung, che era rimasto sconvolto dopo aver visto stendere nella bara il corpo rigido di Olan, si mise a letto una sera per dormire e quando la seconda figlia andò a portargli il tè al mattino, lo trovò là disteso con la sua barba rada da vecchio puntata in aria e la testa riversa indietro nella morte. A quella vista gridò e corse piangendo dal padre, e Wang Lung arrivò e così trovò il vecchio. Il corpo rigido e leggero era secco, freddo e sottile come un pino nodoso. Era morto ore prima, forse subito dopo essersi messo a letto. Allora lo stesso Wang Lung lo lavò e lo mise delicatamente nella bara che aveva comprato per lui. Poi la fece sigillare e disse: «Seppelliremo questi due morti della nostra casa lo stesso giorno e io prenderò un buon tratto di terreno in collina e li seppelliremo insieme e quando morirò voglio essere messo là anch'io». Fece dunque come aveva detto. Dopo aver sigillato la bara del vecchio, la pose su due panche nella stanza centrale e là rimase fino al giorno stabilito. E Wang Lung era convinto che il vecchio fosse contento di trovarsi in quel posto anche da morto. E si sentiva vicino al padre nella bara. Era infatti addolorato, ma non da morirne, perché il padre era molto vecchio e carico d'anni e per molti anni era stato vivo solo a metà. Poi, il giorno stabilito dal geomante, nel pieno della primavera, Wang Lung chiamò dal tempio taoista dei sacerdoti che arrivarono con le loro vesti gialle e i lunghi capelli annodati in cima alla testa, e chiamò dei sacerdoti dai templi buddisti che arrivarono con le loro lunghe vesti grigie, le teste rasate e le 9 cicatrici sacre, e per tutta la notte quei sacerdoti percossero i tamburi e cantarono le loro litanie per i due morti. E ogni volta che interrompevano il canto, Wang Lung versava argento nelle loro mani e loro riprendevano fiato e non smisero di cantare fino all'alba. Wang Lung aveva scelto per le tombe un buon posto sulle sue terre, su una collina e sotto un giuggiolo. Ching aveva fatto scavare e preparare le tombe e ordinato di erigervi attorno un muro di terra, e all'interno delle mura C'era spazio per il corpo di Wang Lung e per ciascuno dei suoi figli e delle loro mogli, e anche per i figli dei figli. Non lesinò la terra per questo, anche se era un buon suolo, alto e adatto al frumento, perché era un segno che la famiglia aveva posto le radici nella propria terra. Morti e vivi avrebbero riposato sulla propria terra. Poi, il giorno stabilito, dopo che i sacerdoti ebbero trascorso la notte a cantare le loro litanie, Wang Lung indossò una veste di tela di sacco bianca e diede una veste simile allo zio e al figlio dello zio, e una veste a ciascuno dei suoi figli, e alla moglie di suo figlio, e alle sue due figlie. Fece venire per loro delle portantine dalla città, perché non era opportuno che camminassero fino al luogo della sepoltura, come se lui fosse un povero, un uomo come tanti. Così, per la prima volta, viaggiò sulle spalle di altri uomini e dietro la bara di Olan. Ma dietro la bara del padre, nella portantina, c'era per primo suo zio. Perfino Loto, a cui non era stato concesso apparire davanti a Olan quando lei era ancora in vita, adesso che era morta, seguiva in una portantina per poter apparire agli occhi degli altri devota alla prima moglie di suo marito. Wang Lung ordinò così portantine anche per la moglie dello zio e per suo figlio e fece cucire abiti di tela di sacco per tutti loro. E persino per la sua scioccherella fece fare una veste e ordinò una portantina e la fece salire, anche se lei era estremamente disorientata e rideva con voce acuta quando si sarebbe dovuto soltanto piangere. Poi, tra forti pianti e lamenti, andarono alle tombe seguiti dai braccianti e da Ching che camminavano con i piedi calzati in scarpe bianche e Wang Lung rimase accanto alle due tombe. Aveva fatto portare dal tempio la bara di Olan, che fu posata sul terreno in attesa che si svolgesse per primo il funerale del vecchio, e Wang Lung rimase e osservò, e il suo dolore era duro e asciutto, e non piangeva forte, come facevano altri, perché nei suoi occhi non c'erano lacrime, perché gli sembrava che quel che era successo, e non c'era da fare più di quanto lui avesse fatto. Ma quando le fosse furono coperte e la terra livellata, si allontanò in silenzio e mandò via la portantina e si incamminò da solo verso casa. E nella sua pesantezza emerse stranamente un solo pensiero che gli faceva male, ed era il dolore di aver tolto a Olan le due perle quel giorno, quando stava lavando i suoi vestiti nello stagno, e non avrebbe più sopportato di vederle alle orecchie di Loto. Immerso in pesanti pensieri, camminava da solo e si disse: là, nella mia campagna, è sepolta la prima metà buona della mia vita e anche di più. È come se metà di me fosse sepolta là, e adesso la vita sarà diversa nella mia casa. E all'improvviso pianse un po' e si asciugò gli occhi col dorso della mano, come fa un bambino.